sì. Questa drona. Il mese di agosto, Dino. Chiude il cantiere, noi ce ne andiamo in ferie, voi lavorate un mese e fate il materiale. In ferie noi lavoriamo, no? Ci può scannare la papà Clinton da davanti. Se venga a dare la mano pure Ricci. No, croc. Io non può far che manco con il Craig. Un attimo che andiamo in ferie. Ah, lo so che lo dici, ma purtroppo che mamma fa. Dobbiamo tirare ancora, Dino. Lo so che dobbiamo tirare, no, lo so, sono convinto, però che tu te ne tiri. Ma se noi siamo nati sotto sta stella, tu mo, per chi ce la vediamo? Che mafia? Tu da Peccendini, invece di fare un palista che ti prendeva la palla, te corriva a prie e solo qui, facevo un ginecolo. Non va a stare sempre che non hai chiaro, ma che non hai chiaro, mi do un chiaro. Guardavi e pigliavo pure lì sopra. Vai, vai, no. Mi si affranchirsi. Quando mi piglia tu ci ne copri. Dino, ma non ho cambiato la moschella. Qui ci arrivi. Scusate, ho sbagliato al mezzanello 1. Che non è scritto. Mi dica, dottore. Vai Vito, vai, vai, vai ad orecchio, vai, quanti non porta più, pure. C'è persa. Over.